Then I went down into the basement where my friend, the maniac, busies himself with his electronic graffiti. Finally, his language touches me because he talks to that part of us which insists on drawing profiles on prison walls. In that moment, poetry will be made by everyone, and there will be emus in the zone. Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Open Cage on Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102200, bentornati a Music for Youth. Anche questa settimana in nostra compagnia, 17.30 per Sherwood, 22 il mercoledì per Radio Sandona. Ciao Al. Buonasera Terzario Al. In sottofondo a noi i Gorillaz, che ci piacciono tanto. Questa è 5-4. Esatto, Open Cage nel senso che hanno aperto le gabbie, immaginavo. Sì, sì, sì, ok. Ottimo. Un po' di traduzione. Your che English ci sta... is very good. Oh, thanks. Allora, passando alle cose serie, cioè non a noi due. Esatto, abbiamo degli ospiti questa sera. Ospiti d'onore, tra l'altro per la prima volta degli ospiti che non sono dei musicisti o non sono dei cialtroni come noi. Esatto. Ma è gente che ha deciso di organizzare da un bel po' di anni in quel di Torre di Mosto un festival chiamato Bersi la musica elettronica. Quindi diamo il benvenuto agli organizzatori. Ciao ragazzi, e un attimo solo che vi alzi i microfoni, ora potete dire ciao ciao. No, ti dobbiamo smentire perché siamo anche musicisti. Siete anche musicisti? Suoniamo anche insieme, però vabbè, insomma, bene, okay. È bello per quello. E allora prendiamo... È un po' come Vialli quando faceva l'allenatore giocatore, hai capito? E allora dai, parlateci un attimo della vostra esperienza musicale, cosa fate di bello? Dai. Mi ha fregato, visto che gli ho fatto fare la figura. E adesso te la... no. Poi ti si ritorcono contro. È un po' in realtà il motivo per cui Bersi la musica è nato. Bersi la musica inizialmente è nato, io non c'ero ancora in mezzo, ma era si chiamava Bersi la musica e basta. Ti ricordi Luca? Vediamo anche Luca, sì. Confermo, sì. Era nato e si chiamava solo Bersi la musica e lo organizzava il gruppo Milt, che era un gruppo di ragazzi di Torre di Mosto che suonavano indie rock intorno al tra il 99 e 2000. Avete fatto questi paio di dischi dal 96 e poi nel 2003 c'è stato un secondo demo al quale io avevo contribuito e avevo fatto la copertina per questo demo, e poi ho suonato per un periodo con loro, poi vabbè, insomma tutto si è sciolto, ma dopo la nascita dei Milt, il gruppo Milt ha deciso di spostare Bersi la musica aggiungendoci appunto il concetto dell'elettronica, e quindi per qualsiasi persona che guarda una brochure dovrebbe trovare scritto ancora gruppo Milt organizza Bersi la musica. Però quest'anno probabilmente non c'è scritto nella brochure, però di solito è una cosa che facciamo sempre, ma non è un problema, nel senso che sanno che ci sono un gruppo di persone che lo organizzano e sono i Milt. Ma questo Milt è un acronimo di qualcosa? Possiamo specificarlo in radio? È meglio non dirlo per i minorenni? Milt, io penso si possa dire, tanto insomma su Sherwood c'è un po' di libertà, c'è ancora, immagino. Quindi, sì, dovrebbe essere lo sperma del pesce? Cos'era? Sì, ecco. Allora, sì. Milt è sperma del pesce, sì. Esatto. Non c'è niente di che. Negli anni, appunto, negli anni 90 uscivano questi nomi. Smashing Pumpkins o altri, insomma, Smashing Pumpkins. Quindi Milt. Sono ragazzi che pescano un po' dappertutto. Ma infatti, voglio dire. Comunque, sì, in questo programma c'è libertà, no? La legge bavaglio, sappiatelo. Sì, esatto, sì. Noi sì. Siamo non discriminiamo nessuno. E comunque siamo molto favorevoli alla riproduzione dei pesci. Cazzo, voi che potete, pesci, riproducetevi. Che sono muti, però. Sono muti. Si sono imbavagliati da soli. Esatto, sì, no? Si riproducono e non te lo dicono, e questo è il peggio. Beh, ecco, quindi Bersi la musica, sì, è nato. suonato dai Milt, che erano un gruppo musicale, che poi ha detto: beh, smettiamolo di suonare perché abbiamo tempo. I Milt sì, è sempre stato un gruppetto così, per passione ci si metteva in una cantina a suonicchiare così. E, però ecco, dopo erano quattro i componenti che poi sono cambiati. Mattia è entrato negli anni, poi se ne è uscito, poi è rientrato. E, così. Ed un po' come John Frusciante. Apro una parentesi, perché i Milt suoneranno dal vivo questo sabato, quindi è una se la fanno, se la suonano, ma vedi, è una reunion, e anche se la puliscono quando hanno finito, sì, se la impacchettano. è un gruppo di stralcioni, proprio di intralazzatori, ecco. il gruppo Milt da quattro persone, poi adesso parlando seriamente, poi Mercy la musica è nato non per far suonare i Milt perché non trovavano date, ma anzi per far suonare gruppi che locali, che facevano appunto elettronica dal vivo ma anche preregistrata. Poi questa è la prima edizione, la seconda sono cominciati a arrivare gruppi da fuori zona, fuori regione, poi dal centro, dal sud Italia, poi le ultime due edizioni anche da fuori Italia e da fuori continente, il Cile, insomma, anche l'ultima edizione. Da quattro componenti, insomma, del gruppo Milt, oggi siamo che lavoriamo proprio, insomma, per non profit sempre, insomma, tutti che danno il proprio sostegno al festival. Siamo arrivati in 40-50 persone, insomma, che ci danno a mano il giorno. Un plotone, festa, praticamente. Un plotone che si diffonde a macchia d'olio, perché cioè, questi partono dal local, che è lo stesso principio nostro, e poi come la marea nera che tanti danni sta facendo negli Stati Uniti, sì. Insomma, investono gli stati. Sì, mentre i pellicani si impiastricciano, loro si sviluppano, noi no, Lele. Però no, per diceva... cui sì, tanto di cappello. Sì, ma diceva cioè, benissimo. Abbiamo da imparare. Sì, sì, sì, infatti diceva benissimo, cioè vedo la lineup dell'ultima edizione, c'era gente da praticamente tutta Italia e tranne il Veneto vedo che non è rappresentato, è una trascuratezza. Ma abbiamo iniziato così effettivamente dalla prima edizione, se non c'erano qualche progetto, c'era qualche proposta noise, comunque industrial della zona, che erano persone che bene o male erano anche conoscenti, però il materiale esterno è arrivato subito da posti come Bologna, quindi non è arrivato niente dalla zona, è arrivato subito da esterno, quindi noi eravamo anche preoccupati, perché Versi la musica campa veramente su nulla, e quindi è bello lo sforzo che fanno tutti gli artisti ogni anno per venire a spese loro alla fine, perché non possiamo pagarli, non gli possiamo dare l'alloggio, però è bello sapere abbiamo questa cosa qua, adesso insomma. Che magari c'è qualche artista che vuole iscriverci, perché il bando scade il 30 giugno, però c'è un premio ogni anno di 300 euro per chi appunto vince l'edizione, premi poi natura, vino, per chi arriva comunque secondo classificato. Sì, infatti io ve lo dico nella mia profonda ignoranza, ci sono sempre stato tutti tre gli anni, anche se a ogni gruppo minimal, techno, eccetera, io mi si aprivano dei grandi punti di domanda, però si mangia e si beve da Dio, devo dirlo. Comunque parleremo più specificatamente, sì, di Bessi e la musica elettronica, chissà se potrebbero vincere i 300 euro i The Drums, che sono il primo gruppo che noi andremo ad ascoltare oggi, lo sappiano che se beccano 300 euro se vincono, non so quanto assimilabili siano al concorso, però ci volete provare, cioè, sì, fate. Infatti voglio dire, cioè, mi sembra gente docile comunque, sono statunitensi, sono di Brooklyn, come cioè, le gomme, ma il collegamento era, voglio dire, non mi pare difficile venire a Torre di Mosto, gli scandinavi molti e molti e molti anni fa con le loro imbarcazioni a vela hanno preso e dalla Norvegia sono andati negli Stati Uniti, si dice prima che Marco Polo ci andasse lui, allora dico io, vuoi che i Drums non siano capaci? Poi c'è low cost, quindi esatto, sulle barche abbiamo anche il barcone poi al porto, se vuoi una trattazione storiografica. Marco Polo, ho detto Marco Polo, ci rendiamo conto, è Cristoforo Colombo. Vabbè, tanto io stavo cioè, ma qua nessuno mi dice niente, siamo in cinque già. Io stavo guardando le manopole. La mediocrità viene sempre premiata. Grazie. Stavo dando un occhio alle manopole del mixer e vedevo che l'EP dei Drums Summertime era stato segnalato da parecchie riviste, tra cui l'NME, che li ha spinti fino in fondo. Insomma, adesso stanno avendo il loro successo. Noi cerchiamo di promuoverli da subito, fregandoli alle altre emittenti radiofoniche, che ci prendiamo avanti con le pratiche come i migliori commercialisti vogliono. Esattamente come i notai di una volta, noi mettiamo dei grossi grossi timbri su questo disco dei Drums. Tra l'altro loro una nuova riproposizione della Wave 80, e quindi assimilabili per certi versi ai Cure, per altri e secondo noi agli Smith. Sì, si dice okay. Anche Joy Division a noi non sembra, però fatevi un'idea. A me sembra anche un po' il pop surf anni 60, però vabbè. Sì. Oi, la facciamo andare? Ma prego. Che qui si è parlato anche troppo. Prego. Diamo spazio alla prego, musica. Esimio. Quindi faccio la solita presentazione professionale. Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102200, Music for Youth in anteprima. Questi sono i The Drums. Let's go surfing. The Drums, Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102200, bentornati, questa è Music for Youth, ospiti questa sera Bersi la musica elettronica, chi la organizza. Io cedo la parola ad Alvise che cederà a sua volta la parola a Luca. Scusami se mi dimentico il tuo nome. Non è un problema, nome. A Mattia, anch'io. O a Mattia. Anche per... lui si dimentica il suo nome, dice. E l'Alzheimer è galoppante in questo studio per, insomma, via di domande di diritto. Certamente, ci anticipavate prima il fatto che il bando per la partecipazione a Bersi la musica elettronica è in scadenza. Ora io e il qui presente abbiamo un nostro progettino in cui in sostanza io giro un carillon con una scimmia sulla spalla e lui suona un campanello e vogliamo partecipare. Come facciamo? Dove andiamo? Ci sono limitazioni di genere? Perché il nostro carilone scimmia magari no, chiama, io tra l'altro appunto leggevo, si chiama Bersi la musica elettronica, ma non vuole essere solo rivolta all'elettronica. No, assolutamente. Anzi no, più che altro perché come presidente di giuria ho sempre nutrito un certo fascino per la ricerca sperimentale. Quindi mi sono sempre interessato fin dagli inizi, da quando Cage ha completamente riconsiderato tutto il concetto di musica. E negli anni 70-80 si è fatto molto a livello di sperimentale sperimentazione. Mi ha sempre affascinato questa cosa. Con l'era del digitale o del laptop forse si è un po' incrinata la ricerca musicale, per il semplice motivo che fare noise con un laptop è molto facile, però non c'è più quella purezza dell'analogico che tendeva a infastidire addirittura di più le orecchie, un po' come la Metal Machine Music di Lou Reed o i primi prodotti di Merzbow. Non ci sono delle imitazioni vere e proprie. A seconda delle persone che sono in giuria si trovano dei prodotti equi, totalmente diversi l'uno dall'altro. Questa è una cosa che reputo molto bella, perché fare una Macedonia, forse una delle Macedonie più belle è proprio quella di creare una commissione fra diversi generi musicali. Quindi c'è veramente di tutto. La questione dei giocattoli l'abbiamo affrontata con Traum Gedanke Collective, che loro appunto avevano, cosa avevano? Non mi ricordo neanche, Luca. Beh, insomma, facevano delle cose strane con sì. L'ultima edizione anche con dei suoni pescati dalla natura e dai luoghi poi dove si è tenuto il festival, ossia nella campagna inoltrata. Torri di Mosto è già campagna. L'abbiamo figurati campagna inoltrata. Inoltrata, proprio c'è il nulla, dove ancora si possono vedere lucciole e stelle senza inquinamenti luminosi. Ed è Boccafossa, che è una ex appunto terreno paludoso, molto molto paludoso, dove si è poi fatta bonifica. Ecco, quindi ci piace la casa in quattro quarti, ma ci piace anche l'opposto, per dire. Quindi basta che si senta che sia un po' fresco. Nessuno chiede di trovare qualcosa di nuovo, perché non c'è più nulla probabilmente da scoprire nella musica, però è importante che si senta che sia fresco e genuino. Dopo sei in quattro quarti va bene così. Parliamo invece di Temper Trap, cambiamo assolutamente argomento. Gente che potrebbe non che non c'entra, non potrebbe, non c'entra assolutamente niente con Bersi le musiche elettroniche, Luca e Mattia li spedirebbero via a calci. Sì, probabilmente il concetto dei Temper Trap di fare noise con un laptop è quando loro lo usano per farsi vento, e quindi è così. Bello, sono onomatopeico, ti ringraziamo per il contributo. Grazie a voi. Si parla di questi Temper Trap, per noi dei sconosciuti totali, però la canzone è abbastanza radio friendly. Vi stiamo presentando Sweet Disposition. No! No! Per fortuna, perché a noi non piace, però tutto sommato questi Temper Trap sono salvabili. Sì, sì, secondo noi sì. Poi no, dall'Australia con amore. Dall'Australia con furore. Hanno fatto anche la fatica di farsela a nuoto per portarci i CD qui in radio. Sì, tra l'altro ricordiamolo tenendo in spalla dei koala. Una scena meravigliosa. Che a loro volta portavano sulla schiena dei bambù. Esatto. E delle foglie di eucalipto. Ma forse dei bambù no. Approfondiremo questa cosa. È come un po' te prima per Cristoforo Colombo. Andiamo con questi Temper Trap. Vuoi presentarli tu, Mr. Favotto? Ma certamente. Allora, 102.2 di Radio Sandonai sui 97.8 di Radio Sherwood. Questi sono per voi i Temper Trap e la canzone è Fader. We'll be right back. Fader di Tramper Trapper, Radio Sherwood 97.8, Radio Sandana 102.200, bentornati a Music for Youth. Se ci state ascoltando in streaming, buonanotte o buongiorno o buon pomeriggio. Ospiti con noi questa sera gli organizzatori Luca e Mattia di Bersi la Musica Elettronica. Tra poco avremo in collegamento telefonico il sito dei National, i webmaster del sito dei National, e presenteremo una nuova traccia del loro ultimo album, Ike Violet. È tempo di cedere la parola ad Alvise, che ha una nuova domanda per Luca e Mattia. Su Marco Polo. Sì, allora, partendo dalla Via della Seta, ci illustrino. Allora, volevo, no, si parlava nel fuori onda di quello dell'organizzazione del prossimo evento, che ricordiamo, anzi sveliamo ai nostri ascoltatori in anteprima quando sarà. Sarà il 21 agosto, ci teniamo sempre in estate, insomma, no? Che il che va bene. Noi veniamo con l'autunno. Sì, sì, sì, perché la zanzara è ancora imperversa e è sempre bello. E no, dove? Allora, si terrà, parlavamo appunto Boccafossa, e confermiamo se a Boccafossa, che è una frazione di Torre di Mosto. Una cosa, noi consigliamo di venire anche prima per poter con la luce vedere anche i paesaggi. Pensavo anche con le catene da neve in certi mesi. Beh, guarda, d'inverno ci sono stato e era praticamente una frazione isolata quasi, perché lei spazza neve. No, scusami per la vaccata, puoi continuare con le cose serie, veramente. No, abbiamo appunto deciso poi di rimanere lì all'inizio. Bersia Musica è nato per fare il porto fluviale, perché abbiamo un canale, Brian, a Torre di Mosto, e un fiume che è la Livenza. A Boccafossa ci troviamo proprio nel mezzo di questi due, di canale e fiume. Il punto è che siamo trovati così bene l'anno scorso, anche ci sono diversi produttori che ci hanno aperto addirittura la fattoria di fronte appunto al Museo del Paesaggio, che ha ospitato l'edizione precedente. C'è una fattoria che ci ha aperto appunto anche per ospitare gli artisti che verranno da fuori, quindi dormiranno e mangeranno piatti tipici, e oltre a chi verrà insomma al festival, e potrà dormire in una fattoria molto molto bella, insomma. Poi perché abbiamo un bellissimo rapporto con quelli dell'ARPAV e siamo sempre minacciati dal maltempo e quindi su 5 edizioni 4 ha piovuto, ma quindi siete stati parecchio funestati, in effetti. Sì, ma siamo noi che abbiamo deciso di farlo a fine agosto, per cui io vi consiglierei paghiamo le conseguenze. La famosa stagione monsonica che colpisce Torre di Mosto. Io vi consiglierei, oltre a un servizio bus navetta, anche un servizio piroga. Due anni fa siamo finiti sul giornale dopo quel disastro che è successo, ci siamo spostati all'ultimo. Palle di ghiaccio. Però vabbè, dai. Però voglio dire, no, più che altro Boccafossa. Ora io sono di Musile e purtroppo sono limitato, però come ci si arriva? Nel senso, dove trovo informazioni? Perché non so se ho tipo, non so, arrivo, c'è il Louvre, giro a destra, vedo sì, la Statua della Libertà di nuovo a sinistra. E ricordate che parlate per il Veneto, quando, per cui sì, non date le indicazioni da San Donà, dove stiamo registrando, mi raccomando. No, allora, dall'aeroporto, perché arrivano anche dall'aeroporto. No, allora, Torre di Mosto, insomma, si trova alla fine, comunque l'uscita autostrada, molti arrivano all'autostrada, l'uscita autostrada è Sanstino di Livenza, e poi da Sanstino di Livenza si segue Torre di Mosto. Torre di Mosto ci sono le indicazioni al centro per Boccafossa e per Museo del Paesaggio. E poi, ecco, sì, non è difficile da trovare, consiglio sempre di venire un po' prima, così da poter anche degustare anche i prodotti. No, sembra una località, venite prima del buio, perché prima del buio succede, sì, qualcosa, sì, no? I famosi molestatori di Boccafossa. Sì, no? Ecco, lì dal tramonto all'alba. Sì, quelle cose. Oh, dal tramonto all'alba, grande, sappi che io ti stimo, perché se ti piace quel film di Rodriguez, il Titty Twister, io ti stimo veramente tanto. Sì, sì, sì, infatti... Everybody be cool, you be cool. Molto bene. Niente, passiamo invece a qualcosa di serio, ossia andiamo ad ascoltarci ora una vostra traccia, una traccia dei vincitori dell'anno scorso, dico giusto? Sì, sì, esatto, Silicon Dust si chiamano. Vedevo i tuoi occhi persi nel vuoto e ho detto, oddio, magari erano i secondi classificati. No, beh. Si chiamano Silicon Dust. Sono un combo napoletano. Napoletani. Cioè, non lo dico perché ho... Napoletani che tra l'altro, è un po', faccio un esempio molto breve, giù li conoscono in molti. e poi come da noi, cioè i Califfo Deluxe sanno chi sono, vai giù a probabilmente oltre Ferrara, probabilmente non sanno neanche, passi il Rubicone ci siamo, per fare un esempio, ecco, Napoli, hanno suonato spesso a Roma, insomma hanno un piccolo circuito, un zoccolo duro di fan ce lo hanno, i Silicon Dust, e da noi sono stati contentissimi di venire a suonare e sì, siamo stati colpiti dalla, ma giù a Napoli un po' come tipo la Dimensione Nazionale che se la giocano Vasco Rossi e Ligabue, e no, lì Gigi D'Alessio e Silicon Dust. Campania e specialmente la Puglia stanno avendo, la Puglia in un modo straordinario, secondo me stanno avendo un risveglio eccezionale dal punto di vista della cultura, non per stare a fare dei riferimenti politici, ma questa cosa delle fabbriche di Nicchi, che sono quelle di Nicchi Vendola, si chiamo Vendola, esatto, sono un'idea penso straordinaria, per il semplice motivo che danno la possibilità dei ragazzi di esprimersi dal punto di vista musicale, culturale e artistico. La Puglia e comunque il Sud Italia ha sempre nutrito parecchie tradizioni, e forse nei momenti di difficoltà sono anche le regioni dove, quando c'è bisogno di alzare la voce o di farsi sentire dal punto di vista della cultura, sono quelle che ci danno più dentro. Andiamo quindi ad ascoltarci questo pezzo di Silicon Dust. Io devo ringraziare questi Mattia e questi Luca, che ma veramente tu senti, mi ci trovo veramente a mio agio. Tu senti questa professionalità che viene dal lato per me sinistro e per te destro dello studio, no? Del Rubicone. Esatto. Andiamo ad ascoltarci quindi Silicon Dust, come dicevo poco fa, su Radio Sherwood 978, Radio Sanona 102.2. Questa è Music for Youth e questi sono i passati vincitori del concorso Best in Musica Elettronica. We'll be right back. 102.2 Radio Sendonà, 97.8 Radio Sherwood. Questa è Music for Youth, sempre in compagnia del vostro conduttore preferito Lele, che sburata le macchine, e io che parlo a vanvera. Allora, come ogni buona, come ogni puntata che si rispetti, ricordiamo l'attività sociale che permette a Music for Youth di darsi un sostentamento. Ora, sei di Boccafossa? Sei di Torre di Mosto? Gli uccelli imperversano sul tuo raccolto? Music for Youth spaventa passeri umani. Ci chiami allo 0421560993. Io e Lele veniamo nel tuo orticello e ci mettiamo a braccia aperte in posizione eretta e ululiamo appena si vede un corvo. Se ci mandi anche un fax allo 0421 560994, allarghiamo il nostro task anche a uccelli di rango inferiore o di dimensioni inferiori. Che caldo. Che non sei ancora a braccia aperte, infatti. Detta questa porcata, sì, anche perché io non ti stavo seguendo. Che contatti hai? Ho detto il telefono e il fax, ma ci possono chiedere di fare lo spaventapasseri anche per mail scrivendoci a radio@radiosandona.it. Altrimenti, se siete tecnologicamente sviluppati più di noi, potete collegarvi su Facebook. Il gruppo è Music for Youth, porta, guarda caso, il nome del nostro programma, Youth, YOUTH, per i non anglofoni, come ci piace sempre dire. Abbiamo anche un blog in WordPress, musicforyouth.wordpress.com, e addirittura Siore Siori per voi. Da pochi giorni avete disponibile anche sull'iTunes Store il podcast di queste puntate, che potete in più raggiungere anche dal sito di Sherwood, sherwood.it. Trovate la nostra pagina Music for Youth, vi abbonate ai feed RSS, e saluti a voi, a Bessa la musica elettronica, Luca e Mattia e tutta la banda di quelli che seguiranno in questo programma. Esatto. Completissimi come i nostri, come i Dasta Brother, che sono stati ospiti di Bessi la musica elettronica. E poi, dopo quello scempio assoluto che hanno eseguito a Bessi la musica elettronica, sì, hanno detto: beh, ci mettiamo un altro nome e ci chiamiamo Chemical Brother. Esatto, lì Dust Brothers, veramente una cosa patetica, ma poi a un certo punto la rinascita. Infatti Bessi la musica elettronica può vantarsi di aver lanciato i Chemical Brothers. Chemical Brothers che tornano sulle scene musicali con il nuovo album Further, da poco rilasciato per una casa discografica della quale non ho assolutamente ricordo, ma deve essere una major, anche perché non vedo altra soluzione di sorta. Esatto, perché cosa te lo registri nella solitudine del tuo bagno? Sei i Chemical Brothers, avrai anche un signore idromassaggio e quello occupa. Infatti non si chiamano Chemical VC. Esatto. Altrimenti era un bagno. È il famoso bagno chimico. Ecco, e andiamo a presentare Swan, che è il nuovo singolo, è stato da Further, da poco uscito come ho appena detto. Ce lo andiamo ad ascoltare, qualche sonorità nuova, ma tutto sommato hanno preferito andare sul sicuro e pescare da dove sanno pescare, ossia sì, dal loro repertorio decennale. Fanno le cose che fanno bene. Le fanno bene, e quindi andiamocele ad ascoltare su Radio Sherwood 97.8, Radio Sandona 102.200. Questo è il nuovo singolo dei Chemical Brothers, si chiama Swan. There's nothing. Chemical Brothers su Radio Sherwood 97800, Radio Sandonà 102200. Bentornati a Music for Youth. Come vi anticipavamo, è arrivato il momento di avere la nostra prima ospitata telefonica. La chiamiamo così in stile Maria De Filippi. Dovrebbe essere al telefono con noi, anzi lo è sicuramente, tra poco lo sentiremo dalla sua voce. Uno dei webmaster di slowshow.org, il sito italiano dei National. Ciao Pier Vincenzo, ci sei? Ciao ragazzi, sì, ci sono. Ciao. Oh, eccolo qua. È bellissimo averti, perché tu magari non lo sai, ma siamo anche in compagnia con dei ragazzi di Bersi la musica elettronica, quindi noi questa sera abbiamo calato il nostro full, in sostanza, cioè abbiamo quegli occhialoni neri e il cappello col frontino, e ci facciamo girare delle carte e diamo delle fish. Comunque, passando ad argomenti più seri della tua faccia e dei tuoi discorsi, signor Favotto. Grazie. Ti diceva che Pier Vincenzo è uno dei webmaster di slowshow.org, il sito dei National. Ci vuoi parlare di questa band? Perché noi già una volta li abbiamo presentati con il nuovo singolo Blood Bazzo e io, però adesso cedo la parola a te, che sicuramente sei più preparato. Ah, grazie. Bene, dunque, The National, una band che viene da Brooklyn, quindi c'è un grande movimento indie in questo quartiere di New York, e Sapien Stevens, ricordiamo, Butler, e sono tutti collaboratori di The National. Cito da poco il nuovo disco, come avrete probabilmente detto, High Violet, ed è stato accolto con grande clamore. Sì, è arrivato noi nella top 10 di molte chart negli Stati Uniti, in Inghilterra e dappertutto. A noi è piaciuto parecchio. A noi è piaciuto parecchio, anche se ho avuto un'impressione, adesso ti becchi la critica, che forse hanno cercato di andare un po' sul sicuro con questa prova, no? Cioè sapevano dove andare a battere, per cui hanno detto, beh, buttiamo fuori un CD. La lingua va dove il dente duole, diciamo. E insomma, alla fine hanno prodotto un High Violet, secondo me un'ottima prova, a me è veramente piaciuto tanto. Tra l'altro ascolteremo, sì. Ci stavo mettendo d'accordo oggi pomeriggio in internet, io e Pier Vincenzo, se mettere il nuovo singolo in uscita il 28 giugno, che è Anyone's Ghost, o Lemon World. Alla fine ho optato per Lemon World, che è una traccia che piace a tutte e due, il singolo, e lo mandiamo a quel paese. Sei d'accordo? Ah, benissimo, io l'adoro Lemon World. Perfetto. Hai avuto modo di ascoltarli anche live in questo ultimo periodo? Mi pareva aver visto, sì, online. Sì, siamo stati io e Valentina, la mia co-amministratrice, siamo stati a Berlino. È stata una gran bella esperienza, soprattutto al di là dello spettacolo in sé, che comunque secondo me i The National attualmente sono una delle migliori band da vedere dal vivo. E il bello dei ragazzi è che cercano di stabilire un contatto con il pubblico proprio fisico, direi, a pelle. È stato bello intrattenerci con loro anche dopo lo spettacolo. È stato bello quando Matt è sceso in mezzo a noi a cantare Mr. November. Valentina addirittura ha avuto l'onore di reggergli il microfono, quindi è stata un'esperienza augurerei a chiunque di fare. È stato veramente bello. In setlist hanno presentato qualcosa che non fosse di Boxer o dell'ultimo album, per cui si hanno rispolverato qualcosa di Alligator e dei capitoli precedenti? Sì, hanno fatto di Alligator Abel e Mr. November, hanno fatto addirittura fuori scaletta in chiusura About Today, e anche questa è stata una bella sorpresa, perché comunque non era scaletta, ma è stata una stupenda chiusura. Noi degli affiliati di The National, per cui ringraziamo Pier Vincenzo. Se vuoi, sì, dire qualcosa di riferimento per il vostro sito, sì. Infatti, qualsiasi iniziativa è il momento per te di sponsorizzarti quanto puoi. Soprattutto, come vi si trova nel web? Ok, allora l'indirizzo è slowshow.org. Abbiamo forum su cui potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno per seguire i National dal vivo, se vi interessa. Discografia, traduzioni, e vi aspettiamo per accoglierli a Milano nel migliore dei modi il 16 novembre, e stiamo facendo di tutto per farli tornare per il 2011 in una nuova data. Per adesso non aggiungo altro, però stiamo facendo veramente di tutto. E nel caso procurateci due accrediti e ci fate un gran piacere. Okay. Noi siamo poveri in canna. Noi portiamo anche lo Stura Lavandini e ci occupiamo di tutto noi. Daniele, okay. Alani Travici, portiamo tutto noi. Per Vincenzo ti ringraziamo. Noi grazie adesso ci metteremo in ascolto di Lemon World su Radio Sherwood 97.8, Radio Sandonà 102.2, dal nuovo capitolo dei National rilasciato dalla 4AD. Questa, come si diceva, è Lemon World dal loro ultimo album, High Violet. Watching swans on TV, living in nothing to me. I gave my heart to the army. The only sentimental thing I could think of is cousins and cousins somewhere overseas. But it'll take a bit of war to kill a college man like me. I'm too tired to drive anywhere, anyway right now. Do you care if I stay? You can put on your bathing suits and I'll try to find something on this thing that means nothing enough. Losing my breath. Losing my breath. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. This pricey stuff makes me dizzy. I guess I've always been a delicate man. It takes me a day to remember a day. I didn't mean to let it get so far out of hand. I was a comfortable kid, but I don't think about it much anymore. Lay me on the table, put flowers in my mouth, and we can say that we invented a summer love and torture party. I'm too tired to drive. Something on this thing that means nothing enough. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. Losing my breath. Questa era Lemon World, Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102200. Bentornati a Music for Youth. Ringraziamo ancora slowshow.org e Pier Vincenzo per averci parlato dei National nel loro nuovo capitolo I Violet. Speriamo andarli a vederci, di vederceli anche noi in concerto a Milano, vero Favotto che mi accompagni? Assolutamente io sì. Io ci tengo un po' più di te, però per questa volta mi fai un sì, gran sì, piacere. Sì, io magari mi siedi dietro assieme al cadavere che hai nel bagagliaio e andiamo tutti in tre. Comunque qui sono stati troppo zitti i nostri ospiti nell'ultima parentesi, infatti erano qui ad ammuffire, qualcuno si passa le mani sugli occhi, vuol dire che sono proprio stanchi. Torniamo ad attivare. No, si rispolverava i dischi degli anni 90, quelli. Sì, che c'è una i bella cappella, gli anticappella. C'erano i cappella e anche gli anticappella. C'è una bella pila di dischi. Era così, io bene o male qualcuno è cresciuto con Albertino, eccomi qua. Sì, assolutamente sì. Ognuno ha le sue sfighe, come si suol dire. No, è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Poi ho scoperto Joy Division, è cambiato tutto. Joy Division, voi li avresti anche ospitati volentieri. Scoprire Joy Division immagino. A 14 anni non è una bella cosa. Tra l'altro Luca, con questa camicia, questo look, io lo vedo un po' vicino ai Joy Division. Questo sai? Look di Luca. Ma infatti mi chiede sempre quando è che facciamo una cover di Low Will Tear Us Apart. No, non la facciamo. Però farete una cover di del pezzo che andremo a ascoltare in chiusura, forse non del pezzo che andremo a ascoltare in chiusura. No, facciamo una cover di Monkey, Goes to Heaven e... Ma e gli artisti sono i Pixies, forse lo avete già indovinato, va bene, dai. Vabbè, ve lo diciamo. Questa è pure la prima volta che... Tra le cover di Love Will Tear Us Apart, che secondo io è una cosa che non coverizzerei perché sono incapace. Stai dicendo José González? No, io stavo per dire Square Pusher. È bellissima quella di Square Pusher. Vabbè, io vi rilancio con José González, che è quello di Heartbeat, che ha coverizzato i The Knife, un gruppo svedese. Ecco. Io l'unico González che conosco è quello senza un braccio, ex attaccante del Vicenza. Io sapevo che andava a finire così. Cioè, come rovinare qualsiasi momento di un po' di cultura musicale, capito? Comunque, signori di Bersile Musica Elettronica, volete dire qualcosa di serio, tipo i vostri contatti? Noi vi ricordiamo a questo punto il MySpace/Bersile Musica, poi abbiamo il nostro Facebook, quando volete, e da lì il sito bersilamusica.it. sia dal MySpace che dal sito riuscite a scaricare il bando, che è in scadenza il 30 giugno. C'è un po' un lasso di tempo per i ritardatari, lo abbiamo sempre fatto, è così. Sì, no. Da quest'anno iscrivere anche online, non serve mandare il demo per posta, ma si può. Però mandatecelo, perché è sempre bello avere la plastica in mano. Il cicin. Tra l'altro, ci dicevate che l'altro anno io e l'esimio qui davanti a me siamo stati i vostri ospiti, e il concorso musicale era legato a era collegato a delle esposizioni pittoriche, se non sbaglio. Invece quest'anno il tema cambia. Sì, quest'anno appunto è il 21 è agosto, è Torre di Mosto, il Bersile Musica Elettronica. Il 20 facciamo un'anticipazione, l'anno scorso era installazioni, quest'anno cinema, e manderemo in onda un film che mi è piaciuto tanto, insomma, sull'elettronica, che poi analizza tutto il distretto elettronico di Berlino, che è Berlin Calling. E ecco, vi aspettiamo anche per quella data, così avete qualche anticipazione anche. Ascoltate la colonna sonora di Paul Kalkbrenner, basta, questa è una colonna sonora bellissima. Messaggi promozionali a casaccio, che esatto. Piovono così. No, è una colonna sonora straordinaria quel film, quindi la consiglio a tutti. Ti prendi Paul Kalkbrenner o ti tieni i tuoi due fustini, dai. Facciamo che ci penso e te lo dico alla prossima puntata. Va bene. Ok, tornando a fare la gente seria, ora ci pensano Luca e Mattia a dire il nome della seconda band che andiamo loro, a sapere, e ve la presentate anche da voi, faranno anche qualcosa. Seconda band è un da solo, è un unico, un solista. È un unico, è un unico è un solista. No, perché da sto codice fiscale che mi hai proposto, pensavo fossero perlomeno 14. Ora non ricordo esattamente, è Luis El Prado, non so, mi ricordo che si chiama Luis El Prado. Comunque è Ciuspa Libre CPU Orchestra. Ecco, se i Silicon Dust erano dal lato del laptop e quindi digitale, lui invece è salito sul palco con parecchi strumenti analogici e ha vinto la categoria della Record Track, che non è appunto quella della musica dal vivo, e ha fatto veramente una bellissima figura, un buon prodotto a mio avviso. Parentesi un attimo, salutiamo i Dunkelblau, che hanno partecipato a loro volta al concorso di Bessere Musica Elettronica. Sì, che hanno ultimato il disco. E li aspettiamo per questa edizione, non si sono ancora iscritti. Ma perché? Dunkelblau, allora. Insomma, vabbè, comunque. Mi pare che qualcuno di loro sia a Berlino in questo periodo. Esatto. Stefano a Berlino, ma tra l'altro adesso. Però è bello, ci stiamo facendo i cazzi nostri in questo momento, è straordinario. Ma te l'ho detto, non c'è la legge Bavaglio in questo programma. Vabbè, comunque, si diceva, questi Dunkel, adesso li faccio anche da sponsor perché sono miei conoscenti. Ora forse invece i miei no, se la tirano un po' troppo, perché adesso sono anche, hanno remixato ufficialmente il nuovo singolo dei Velvet, per cui sull'EP digitale e fisico hanno vinto la competition su founds.com, per cui il remix ufficiale di Velvet, la canzone Serpente, mi pare sia il nuovo singolo, è dei Dunkel, complimenti. Probabile, ragazzi. Probabile che sia più bello il remix della canzone. Sì, molto più probabile. Comunque, i Velvet sono sempre piaciuti alle 14enni, quindi anche ora che avranno un'età compresa tra i 50 e i 65 potrebbero piacere ancora. Comunque, come Pippo Baudo diceva, potete farlo anche voi per i Dunkelblau, li ho scovati io per queste cose. O una frase simile. Vabbè, comunque fammi una cortesia, Mattia, dimmi il nome di questo emerito, che poi io dico Ciuspa Libre CPU Orchestra. Ecco, ascoltatevelo. Music for Youth, il tempo stringe per noi, ben ritrovati in streaming, se ci state ascoltando in podcast, in registrazione, in quando volete. In Messico. In Messico o a Santiago, perché viene, Santiago è in Cile. Viene da lì colui che ha suonato questa traccia. Bravo, Terza Leone, che te ne sei ricordato. Bravissimo. Continua a rimanere in sottofondo, tra l'altro, questa traccia. È arrivato per noi il momento di salutare chi di dovere, per cui Mattia e Luca. E vi ringraziamo tanto per essere stati con noi. Noi ringraziamo voi. Grazie a voi. Prego. Cioè, adesso, veramente di niente. Adesso ci sarà un momento in cui io e Daniele qui ci mettiamo a piangere. e voi ci dovrete consolare. Comunque, volete fare i saluti per l'ultima volta? Oppure sinteticamente diciamo che Bessile Musica Elettronica si terrà il 21 agosto. Esatto, 21 agosto. A Boccafossa. Museo del Paesaggio di Boccafossa. Siateci in tanti, perché contatti ci trovate anche avete lì. MySpace, Facebook, Bessile Musica, tutto quanto. Milt dal vivo, sabato sera, a Sanstino di Livenza. Sì. Presso la sede dell'associazione culturale Up Arte, che gestisco assieme ad altri ragazzi. È tutta una commissione di cose qua. In stile anemone. Tutta una grande famiglia. Baciamo le mani. Se non piove, Milt dal vivo. Speriamo non ci sia brutto tempo, dai. L'hanno chiamato. Anche perché sarebbe cosa la quarta volta? No. Quarta, quinta? Così. No, su 5 e 4, 5 e 3. Versi la musica su 5 e 3. La musica si fa nella campagna, c'è bisogno d'acqua d'estate e quindi... Chiamano voi. Esatto. E le spighe veramente ringraziano. Sì, molto probabilmente per quest'anno, vero che stavate pensando tipo all'invasione delle locuste? Non lo so. Quale piaga porterete a Boccafossa? Probabilmente scoppierà qualche centrale, magari qualcosa. Quella atomica che si vogliono costruire sotto il sedere. Comunque va bene. Faccia di Rodriguez, facciamo le cose che accadono sul serio. Se volete farcelo sapere in anteprima, mandateci una mail a radio@radiosandona.it o telefonateci allo 0421 560 93, fax 56099. Contattateci su musicforyouth.wordpress.com oppure sul gruppo in Facebook o sulla pagina Sherwood o sull'iTunes Store. Però il podcast è gratuito, ho finito questo listino della spesa, anche perché Favotto si stava annoiando. No, ma più che altro è più che altro per farti prendere fiato, perché l'ascoltatore medio non sa che il Terzariol qui presente ha solo un polmone. Ora e per di più d'acciaio. Esatto. Andiamo a presentare il nostro ultimo pezzo. E perché li abbiamo scelto? E perché l'abbiamo scelto? Abbiamo scelto i Pixies, innanzitutto, e ne parlavamo già prima. Ora, prima... I tempi sono stretti e mi tocca ricordarvelo, perché il counter ce l'ho davanti solo io. Foriamo anche dell'ora, per cui ci beccheremo le bestemmie di tutti quanti. Il record dell'ora. E però ci diranno perché abbiamo scelto i Pixies. Cioè, noi li abbiamo scelti non a casaccio, ma perché ci piacciono. Però, guarda caso, l'abbiamo scoperto un collegamento durante la serata. Anche sì. Questi Mattia e questi Luca ci apprezzano i Pixies. Sì, ci apprezzano. I Milt hanno iniziato suonando cover dei Pixies. Surfer Rosa, bell'album, vero? E io non sono un cultore dei Pixies. Addirittura mi sono trovato a fare una cover di una canzone che non sapevo neanche il titolo. Beh, allora forse cultura ne è Luca. Sì, Luca moltissimo. Vai Luca, parla il cultore. Sì, i Milt appunto, che hanno ideato appunto questo festival, siamo appassionati, eravamo in tre, Mattia è entrato dopo e l'abbiamo fatto appassionare, ma non così tanto. Però ancora. Tu avevi il vinile arancione degli 883 a casa, quindi devi anche dire che cosa ascoltavi prima. Sì, tu avevi Albertino. Che fortunello, eh? Fargetta. Beh, comunque ecco, siamo cultori dei Pixies, anzi, siamo contentissimi del loro ritorno e così siamo ritornati anche noi, ci esibiamo questo sabato appunto a Sanstino di Livenza. E non chiediamo 40 euro come Pixies a Ferrara. Perché siete veramente tirati su dalle tombe, chiedete pure 40 euro. Per carità, noi Ferrara sotto le stelle continuiamo a pomparlo tantissimo. Sì, 40 euro ai Pixies no. Perché è un festival davanti al quale noi ci inchiniamo. Sì. Pixies è bello perché è un gruppo dalle 6 del pomeriggio. Esatto. Sì. O se ti vuoi sparare un colpo in bocca davanti a dei grattacieli che cadono in stile Fight Club. Esatto. Ma che gran film. Poi si sono anche ingrossati, sai, fa caldo. Avranno anche caldo, cioè, sì, suonando, insomma. Sì, ma poi... Tra l'altro, Fight Club. Dust Brother. Suon. Paludi, Boccafossa. Bessile Musica Elettronica. È perfetto, l'hanno fatto apposta in Chemical Brothers. E con questo diagramma noi possiamo anche chiudere questa puntata di Music for Youth. Siamo a posto, Favotto. Sì, cioè, sì, sì. Portato a casa il risultato. Cioè, siamo il classico Cile che pareggia con l'Honduras. Anche perché in sottofondo ci sono i Death Valley, i Sleepers, per cui ci mandano proprio a dormire. Esatto, sì. E noi ringraziamo ancora una volta questi Mattia dormono e Luca. Nella valle della morte, però. Noi ci si vede il 21 agosto in quel di Boccafosso, lo ricordiamo ancora una volta perché l'ultima non è mai troppa. E vi invitiamo a sostenere questo festival che è assolutamente peculiare per, secondo noi, la regione di Venezia. Poi sostenete la buona musica, le buone iniziative. Sì. Perché insomma noi ci teniamo e speriamo che lo facciate anche voi. Grazie molto. Ragazzi, è stato un piacere. Favoto, è stato un piacere. A me non resta che congedarmi. Anche per me è stato un piacere. Io non ti ho visto, ti ho vissuto. Citazione. Su Radio Share 7.8. Questa era una mia risata. Radio Sandona 102.200. Where is my mind? Dei Pixies. Ciao a tutti.